Ottobre piovono libri. Si chiama Ad alta voce della giornata dedicata alla lettura, in cui scrittori, attori e artisti animano luoghi inconsueti della città leggendo in pubblico i loro libri preferiti. L'appuntamento è per sabato 10 a Bologna, venerdì 16 a Cesena e sabato 17 a Venezia. Fra i personaggi che si esibiranno, Enrico Brizzi, nome per sempre legato a Jack Frusciante uscito dal gruppo, lo scrittore montanaro Mauro Corona, Giuseppe Culicchia, Melania Mazzucco, Ottavia Piccolo e il filosofo Gianni Vattimo. Tema di quest'anno il cibo come bisogno, cura e solidarietà, ma anche come tramite dei sentimenti e simbolo. Ogni autore sceglierà liberamente come declinare il tema. Sentiamo allora che cosa proporrà Donato Carrisi, il giallista che ha firmato Il suggeritore, intervistato da Stefano Totoro. Ho scelto Hannibal di Thomas Harris per una ragione semplicissima, perché tutta la manifestazione è incentrata un po' sul tema libero del cibo. A me sembrava interessante raccontare la ricetta di un cannibale. Come mai ha scelto di leggere un thriller? Perché il thriller, diciamo che è un genere che può comprenderne molti e permette una contaminazione assoluta. Non è escluso che nel thriller possa esserci, ad esempio, una bellissima storia d'amore incastonata in una struttura che permette appunto questo tipo di contaminazione. C'è un bel parterre, devo dire che sarò circondato da parecchi colleghi molto autorevoli, quindi questo non può che riempirmi d'orgoglio. A che tipo di pubblico pensa di rivolgersi? Un pubblico dallo stomaco forte, questo sicuramente, perché sarà un po' una provocazione, diciamo. La scelta del tema relativo al cibo, cioè quella dell'appetito del cannibale, è legata soprattutto al fatto che in fondo siamo tutti cannibali. Il primo cibo che assaggiamo è di derivazione umana ed è il latte materno, ed è un sapore che non si dimentica mai. Donato Carrisi leggerà dunque brani di Hannibal sabato alle 14 in piazza San Giovanni in Monti a Bologna. Per tutti gli altri appuntamenti di Ad alta voce, in genere per le iniziative di ottobre piovono libri, www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.